Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Vanetti, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per il consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese con Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca. Il tema di questa sera è prettamente un tema pasquale, potremmo dire. Parleremo della resurrezione della carne. È uno di quegli articoli di fede che enunciamo spesso durante la professione di fede, durante il simbolo, in ogni santa messa domenicale. Ma forse se ci venisse chiesta qual è la nostra vera speranza per quella che è la vita dopo la morte, non so se avremmo la prontezza, ecco, di rispondere credo alla resurrezione nella carne. Non so se avremmo le idee così chiare. E forse proprio il tema della resurrezione è quello che bisogna riprendere in esame, partendo proprio dalla concretezza di questa verità di fede che tocca tutti coloro che credono in Cristo e in Lui vogliono partecipare di questa speranza di vita nuova. Ancora una volta ricordo che il senso di queste nostre conversazioni non è semplicemente di richiamare alcune verità teologiche o magari di fare un utile ripasso della dottrina cattolica, ma di ricordare quelle verità di fede che concretamente possono incidere sul modo col quale guardiamo la nostra vita e quindi concretamente aiutarci a vivere quella che è l'esistenza quotidiana in tutte le sue sfaccettature, anche nei momenti di prova, come ad esempio stiamo vivendo in questo tempo di pandemia da coronavirus. Pensate che differenza affrontare la tribolazione di questo tempo presente, le prove, le sofferenze, le difficoltà, i lutti e la morte, avendo una prospettiva di resurrezione, oppure all'opposto credere che la vita finisca qui, che sia semplicemente una parentesi infelice e dolorosa tra la culla e la tomba. In questa differenza sta proprio l'importanza di considerare perno centrale della nostra fede la resurrezione di Cristo, ma una resurrezione che tocca da vicino anche la nostra persona nella sua corporeità. Allora partiamo, per chi avesse la nuova edizione del libro, da pagina 195, dicendo che questa resurrezione dei corpi è anzitutto una verità di fede. Ed è proprio contenuta nel simbolo apostolico, diciamo il credo nella forma breve, che afferma «credo la resurrezione della carne, la vita eterna». Le due affermazioni vanno intese come due aspetti complementari di una stessa realtà, per evitare il rischio di scadere nella ipotesi reincarnazionista. Se dicessi semplicemente «credo la resurrezione della carne», potrei pensare che sia la mia anima che passa da una carne all'altra, come appunto sostiene la reincarnazione. Invece quando dico la vita eterna, la resurrezione dei corpi, metto insieme i due aspetti. C'è un'eternità di vita nell'anima, ma al tempo stesso un'eternità di vita della persona stessa, essendo la persona, l'essere umano, a due dimensioni, appunto corpo e animo. La resurrezione finale dei corpi, alla fine dei tempi, è un fatto accettato già al tempo di Gesù, che in polemica con i Sadducei, una fazione del tempo che non credeva nella resurrezione, replicando a una domanda che gli viene posta per tendergli un tranello, gli fanno il caso ipotetico, un esperimento mentale, se volete chiamarlo così, di una donna che ha sposato 7 fratelli e poi è morta. E gli si chiede, ma in cielo di chi sarà moglie? E Gesù precisa che in cielo non si prende né moglie né marito, ma soprattutto ammonisce a credere nella resurrezione, il capitolo 22 di Matteo. Quanto poi alla resurrezione dei morti, dice Gesù, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Ora non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Anche Marta, al capitolo 11 di Giovanni, quando si trova alla morte del fratello Lazzaro, interrogata da Gesù che le domanda se crede nella resurrezione del fratello, risponde «so che risusciterà nell'ultimo giorno». Quindi l'idea di una resurrezione finale c'era già al tempo di Gesù. Questa era la fede del popolo, che confidava quindi in una resurrezione escatologica, cioè finale. E a queste parole di Marta Gesù replica affermando, questa è la grande novità che porta al popolo eletto, al popolo ebraico, di essere lui stesso la resurrezione e la vita, e lo mostra resuscitando Lazzaro. La resurrezione è poi una realtà universale, cioè non riguarda soltanto chi è morto in grazia di Dio, cioè in amicizia col Signore, ma riguarda ogni essere vivente, giusti e ingiusti. Lo ricorda bene il capitolo 5 del Vangelo secondo Giovanni, laddove troviamo «Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così, dice Gesù, ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Questo ovviamente è in riferimento all'ultimo giorno, quando il ritorno di Cristo nella parusia e nella gloria sarà il preludio alla resurrezione di coloro che sono morti. Dall'inizio della storia ogni persona risorgerà. E quando diciamo ogni persona intendiamo tutti. Lo precisa Gesù, quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male per una resurrezione di condanna. Ancora più sinteticamente, San Paolo, quando è chiamato a difendersi nel processo che hanno intentato i suoi nemici contro di lui alla presenza del governatore Felice, afferma: ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti, è il capitolo 24 degli Atti. Quindi l'idea che risorgano giusti e ingiusti conferma che il paradiso, dove andranno i giusti, e l'inferno, dove vanno invece quelli che si autoescludono per sempre dalla comunione con Dio, sono eterni. Poiché la resurrezione porta con sé una dimensione di eternità, un senza fine, che rende quindi omogenei anche i luoghi in cui si troveranno queste anime. Quindi è interessante, quando si pensa al paradiso e all'inferno, pensarli anzitutto come condizione dell'anima. E allora uno potrebbe dire, in fondo, il paradiso è la condizione di quell'anima che risorge nella gloria e si ritrova nella beatitudine senza fine, nella comunione con la Santissima Trinità. E invece l'inferno è quella condizione dell'anima che si ritrova esclusa per libera scelta dalla comunione con Dio. Ed essendo una condizione dell'anima, è evidente che se non ci fossero anime che si sono autoescluse, neppure ci sarebbe l'inferno. Ma poiché Gesù ha detto a più riprese che l'inferno esiste, che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli, e che nell'ultimo giorno, capitolo 25 di Matteo, il Signore separerà le pecore dai capri e dirà a questi ultimi, quelli posti alla sua sinistra: via da me, maledetti, nel fuoco eterno dell'inferno. Ecco che allora questo stato si desume essere eterno e senza fine. Se dovessimo schematizzare, potremmo dire che al momento della morte l'anima si separa dal corpo e vive il momento del giudizio particolare, per essere poi indirizzata o alla salvezza o alla condanna. E la salvezza in questo caso comprende due possibili stati, o il purgatorio o il paradiso, mentre per la dannazione c'è ovviamente l'inferno. Alla fine del mondo, quando ci sarà il ritorno di Cristo nella parusia e il giudizio finale, non solo verrà confermato e reso pubblico quello privato, ma come si può dire, di fronte all'umanità intera ci sarà la conferma fissando il proprio stato eterno soltanto più nel paradiso o nell'inferno, non ci sarà più cioè il purgatorio. E in quel momento la persona si ricostituirà perché ci sarà la resurrezione dei corpi. E quanto è importante questa resurrezione? Ma lo è da un punto di vista teologico e antropologico abbastanza evidente, perché noi siamo persone. Sarebbe assurdo pensare di vivere la condizione terrena, che è così precaria, effimera e di breve durata, nella pienezza del nostro essere, quindi essere persone fatte di anima e corpo, ed essere poi, passatemi l'espressione, condannati a vivere un'eternità soltanto a metà, essere soltanto anime. È una incompletezza che fa pugni con la perfezione ontologica della persona umana, che è un sinolo, direbbe Aristotele, cioè una unità inscindibile di anima e corpo. E questo corpo va recuperato. È chiaro che nell'attesa del giudizio finale si vive una condizione intermedia in cui siamo semplicemente anime. Tutti? In realtà no. Ci sono almeno due che non sono semplicemente anime, ma sono già anima e corpo glorificato e risorto. E questi sono Cristo, che è risorto nella domenica di Pasqua, nella mattina di Pasqua risorge e mantiene il suo corpo risorto e glorificato per l'eternità, ancora oggi, e poi la Madonna che è assunta in cielo, è la primizia dei risorti, così la chiama la Chiesa, perché non ha conosciuto la morte nel senso umano e terreno della separazione del corpo dall'anima. Ecco, chiarito questo passaggio, chiediamoci qual è il fondamento della resurrezione finale dell'uomo, cioè perché dovremmo credere veramente che la nostra carne risorgerà. Il fondamento della nostra prospettiva di resurrezione è la stessa resurrezione di Gesù. San Paolo lo afferma chiaramente quando scrive: Nel Lettere ai Romani al capitolo 8, Cristo è il primo di coloro che risorgono dai morti. E ancora, nel Lettere ai Colossesi al capitolo 1, Cristo è il primogenito della creazione. Poiché la morte e la resurrezione di Gesù Cristo liberano l'uomo dal maligno, dal peccato e dalla morte, questi sono i tre fronti di lotta continua per l'uomo impegnato nel pellegrinaggio terreno. Perché lottiamo contro la precarietà della nostra esistenza, contro la paura della morte, lottiamo contro il peccato perché è la lotta spirituale di ogni giorno per ogni persona, e poi lottiamo contro il maligno perché il maligno ci tenta nella sua azione ordinaria, quando non arriva addirittura con l'azione straordinaria, alle forme della vessazione, dell'ossessione o della possessione. Gesù Cristo ci libera quindi dal maligno, dal peccato e dalla morte. E con ciò apre all'uomo la possibilità di entrare nel paradiso, già al momento della morte, se perfettamente in grazia, e poi di risorgere con il corpo, ma questo soltanto alla fine dei tempi, quando ci sarà il giudizio universale. E ancora San Paolo che sviluppa il tema di Cristo come primizia della risurrezione, ponendolo in parallelo e anche in opposizione ad Adamo. Adamo è il nostro progenitore e con il peccato originale, come descrive la Genesi, nel capitolo 3, si è trovato a essere lui stesso causa di quella morte che caratterizza la condizione umana, a dispetto del progetto del Creatore. Questo lo dice molto chiaramente il libro della Sapienza, al capitolo 2. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità. Noi siamo stati creati per l'immortalità. Lo fece a immagine della propria natura. È chiaro che noi siamo creati, quindi abbiamo un inizio nel tempo, Dio invece esiste ab eterno, ma Dio è per sempre. E ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, quindi destinato all'immortalità. Eppure dice a un certo punto: ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. E quindi scrive San Paolo molto chiaramente, rispetto a questa morte, che, lo ripeto, entra nel mondo per invidia del diavolo. Cosa significa? Che il diavolo, invidioso del privilegio riservato agli uomini, perché la natura umana sarebbe stata assunta dal Verbo, ha deciso di ribellarsi al Creatore e inducendo al peccato i nostri progenitori li ha portati a compiere quel peccato originale che tra le conseguenze comporta anche questa di morire, ma morire non nel senso semplicemente di concludere l'esistenza terrena, perché anche Adamo avrebbe dovuto concludere la sua esistenza terrena, ma forse l'avrebbe conclusa come la Madonna, con una sorta di assunzione al cielo se non avesse mai peccato. Il problema è che col peccato originale la morte dell'uomo diventa quell'esperienza drammatica che ciascuno di noi vive, un'esperienza di fine, a volte tragica, violenta, sofferta della vita terrena, ma soprattutto con il timore di non sapere spesso cosa ci si aspetta dopo, con la paura di non avere una fede sufficientemente salda, ma soprattutto con questa situazione drammatica di separazione del corpo dall'anima. In questo proposito scrive ancora San Paolo, alla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15: ora invece Cristo è resuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti, poiché se a causa di un uomo venne la morte, e questo è Adamo che ha peccato e col suo peccato originale ha causato la mortalità dell'intero genere umano, a causa di un uomo, cioè di Gesù, verrà anche la resurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, morire nel senso di essere costretti a passare attraverso la morte come esperienza drammatica di fine della vita terrena, così tutti, dice San Paolo, riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta, alla fine dei tempi, quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre. Dopo aver ridotto al nulla ogni principato e potestà e potenza, qui sono i riferimenti a quelle potenze del cielo che attentano alla salvezza dell'uomo. Il riferimento è alla battaglia contro il maligno e contro gli angeli ribelli. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. Quando si dice che l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, si intende in maniera molto precisa che la morte viene annientata, anche se poi il vero nemico è il maligno, ma sappiamo che per il maligno non è previsto l'annientamento, bensì la condanna nello stagno di fuoco e di zolfo per i secoli dei secoli, cioè l'inferno eterno. Ma detto questo, Cristo risorge e noi risorgeremo con lui, viene da chiedersi, ma perché risorgere con il corpo? Vediamo come Gesù risorto si presenta prima dell'ascensione, in quei 40 giorni, ai suoi discepoli. E leggo dal capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Questo mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Ecco, proviamo a immaginare la situazione. Gli apostoli si ricordavano delle parole che Gesù aveva detto loro: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Matteo capitolo 17. Ricordavano queste parole, ma dopo aver visto com'era stato barbaramente flagellato Gesù, dopo averlo abbandonato alla crocifissione, lasciando soltanto Maria e Giovanni ai piedi della croce, anche nel cuore degli apostoli il dubbio aveva messo radice. Avevano dubitato, avevano paura, è una paura che dopo la Pentecoste non avranno più, quando sfideranno le guardie del Tempio, quando saranno pronti a morire. Ricordate che tutti gli apostoli moriranno martiri, anche San Giovanni, il più anziano, il più longevo, in conseguenza delle percosse subite, no? Proprio a causa del Vangelo. Ma da dove gli verrà questa forza? Dallo Spirito Santo. Ma prima della Pentecoste hanno dubitato, hanno esitato. Potremmo dire che in fondo nel rinnegamento di Pietro sono condensate in modo estremo le paure di tutti gli apostoli che lasciano Gesù da solo. E quindi cominciano proprio a dubitare, finché Gesù appare loro. È la sera del giorno dopo il sabato, la sera della Pasqua. Ed è chiaro che c'è qualcosa di straordinario. Intanto si dice che sono a porte chiuse, avevano paura dei giudei, che ovviamente, messo a morte Gesù, avrebbero voluto fare la festa anche ai suoi apostoli. Eppure, pure a porte chiuse, Gesù appare, viene in mezzo a loro. Eppure non è un fantasma, perché mostrate loro le mani e il costato, si fa riconoscere e gli undici finalmente esultano. È proprio lui, il Signore. È bellissimo questo particolare, no? Perché lo riconoscono, perché è proprio lui. Non è un puro spirito, non è che sentono una voce in lontananza, ma si presenta nella carne. E quindi può dire loro: guardate che sono proprio io, ma non vedete le mie mani trapassate dai chiodi? E il mio costato trafitto dalla lancia? Allora il corpo diventa un modo per farsi riconoscere, per mostrarsi in pienezza. Ma questo è quello che capita anche a noi, cari amici. Se voi pensate a quanto è abituale per noi entrare in relazione attraverso la corporeità, pensate a quando portiamo nel cuore il ricordo di una persona cara. Non ne ricordiamo forse il volto? Sì, possiamo anche ricordare la voce, possiamo ricordare un tratto del carattere, un motto dello spirito, un modo di essere, un'inclinazione, un talento, ma anzitutto il volto, che è il modo di apparire. Ed è così importante la relazione, questo è un particolare che dico spesso ai miei studenti, che una delle cose più belle di noi stessi, della nostra corporeità, che è proprio il volto, è quello che noi non vediamo mai. Io posso vedere le mie mani, posso vedere le mie braccia, le mie gambe, puoi guardarti anche l'ombelico se proprio sei così concentrato su te stesso, ma non puoi vedere il tuo volto, devi andare allo specchio. E uno dice: come mai questa cosa? Beh, vai ancora oltre. Qual è la cosa che può colpire di più in un volto? Gli occhi. Gli occhi sono specchio dell'anima. Tu non puoi vedere i tuoi occhi. È stranissima questa cosa. Ed è la cosa più importante con cui ti presenti ad un altro. E perché? Perché tu in realtà puoi vedere la tua faccia specchiandoti. Non tanto in uno specchio, in un vetro, ma nel volto di un altro. E quando vedi una persona come reagisce nel vederti, capisci che faccia sta guardando, perché se ti presenti sorridente si illumina questo volto. Se arrivi che sei triste, lo vedi magari abbuiato, crucciato, preoccupato per te. Allora, questo dice la necessità di una relazione. Ecco, la corporità dell'uomo è proprio il segno, a livello di antropologia teologica, della, come si può dire, individuazione di uno spazio concreto in cui si gioca la relazione d'amore. E questa stessa concretezza è quella che ha assunto Gesù facendosi carne e diventando prossimo all'uomo. Gesù, immaginate quante mani ha stretto, quanti visi ha accarezzato, su quanti, non so, su quanti volti ha posato gli occhi, su quante teste ha posato le mani. Gesù, no, quando diceva lasciate che i bambini vengano a me e poi li accarezzava. Pensate a quante volte, non so, poteva magari aver rialzato qualcuno che era storpio, paralitico, cioè Gesù entra in contatto con la sua corporeità. E quando nell'ultima cena si dice che Giovanni poggia la testa sul petto di Gesù e gli chiedono chi è che ti tradirà e lui risponde e ovviamente dice soltanto lui chi l'avrebbe tradito, ma è bello pensare chissà quante volte Gesù aveva abbracciato gli apostoli. Li aveva confortati, li aveva esortati, non è che li accogliessero sempre a braccia aperte, a volte magari insomma, li insultavano, li mettevano in crisi, magari li sbeffeggiavano e poi lui li consolava, no? E questo vuol dire che nella sua concretezza si è fatto vicino all'uomo e ad ogni uomo. Io ho compreso la concretezza della resurrezione nella carne. È proprio in una delle prime presentazioni che facevo di questo libro, quando è uscito ormai qualche anno fa, e ricordo che ero in un paese vicino al paese natale dei miei nonni, che è Mirabello Monferrato, e vicino si trova Lu, questo paese molto simpatico, un nome cortissimo, ed è un paese molto caro a Don Bosco, un paese di grandi vocazioni, e da lì viene il beato Don Filippo Rinaldi, no? Successore di Don Bosco. Bene, ero in questo paese a fare una serata sulla vita eterna, molto particolare perché racconto sempre anche della perdita, che poi è stata un'apertura per me grandissima nella fede, della perdita di mio fratello gemello Gianluca, che è morto in un incidente di moto nel 1997. E raccontavo di questo episodio molto personale in un luogo vicino a un paese che ha visto crescere me e mio fratello. E quindi in sala c'erano anche persone che ci conoscevano. È stata una serata molto intensa, molto particolare, perché raccontavo di una serata, di un episodio, di un incidente, di un lutto, che ricordavano bene diversi dei presenti. Finita la serata, quindi con un po' di stanchezza, anche emotiva interiore, perché vedevo appunto i volti di tanti amici, e mi trovo a cogliere un po' le domande delle persone. E in modo particolare c'è questo signore che si avvicina. E mi dice, ma alla fine risorgeremo veramente con i corpi? Ma dico, sì, risorgeremo con i corpi. Ma lei è sicuro? No, insisteva, ho detto, ma è certo che sono sicuro. Dico, ma perché ha questo dubbio? È perché il mio parroco dice che no, saremo anime. Dico, ma guardi, dica al suo parroco che se legge il Vangelo scopre ben altro e basta ripassarsi un po' il catechismo della Chiesa Cattolica e scopre che ogni domenica i suoi fedeli nella messa, magari lui è un po' distratto, ma dicono proprio credo alla resurrezione della carne e alla vita eterna. Quindi, ma come mai le sta così a cuore la questione? E mi stupì perché questo padre mi disse, perché io ho perso una figlia, Antonella, di 17 anni, e un giorno voglio riabbracciarla. Ecco, mi colpì perché questa ragione probabilmente persuade molti più di voi che siete all'ascolto in questo momento che non sentirvi dire che è un principio antropologico che richiede la risurrezione dei corpi, perché bisogna ricostituire la persona. E uno dice, guarda, di questa filosofia non è che mi interessa tanto, per me ricostituire o meno andrebbe bene comunque, ma se con il corpo posso abbracciare una persona cara, e beh, allora mi interessa la resurrezione col corpo. E Gesù che ci mostra cos'è la condizione del risorto, si presenta esattamente con questa corporeità. E il corpo diventa proprio questo modo, no, di farsi riconoscere, dicevo, ma anche per dire, guardate che l'alleanza tra l'uomo e Dio è stata siglata con l'incarnazione. Quando leggiamo nel prologo di Giovanni che il Verbo si è fatto carne, vuol dire che c'è un'alleanza nuova ed eterna, e che è stata sigillata col sangue versato sulla croce, ma anticipato nell'ultima cena. E questa alleanza, se ci pensate, è veramente eterna. L'alleanza tra l'uomo e Dio. Qui bisognerebbe fare il ripasso delle alleanze. No, ci proviamo. Allora, riavvolgiamo il nastro, andiamo agli inizi. Quando è stata la prima volta che si può dire c'è stata un'alleanza tra Dio e gli uomini? Beh, uno potrebbe dire già nella creazione, in fondo vengono dati delle indicazioni ben precise all'uomo, no? Gli si dice che sarà il custode del creato, poi sappiamo com'è andata, c'è stata la caduta, la catastrofe del peccato originale, la cacciata dall'Eden. Poi a un certo punto sembra che il Signore si stia pentendo dell'umanità, no? E questo capita quando decide di mandare il diluvio universale. Però Noè, con i tre figli e le rispettive mogli, otto persone in tutto, sono giusti. Forse in realtà era Noè veramente quello giusto, ma per riguardo lui salva anche tutta la famiglia, e quindi si costruisce l'arca. Viene mandato il diluvio, e ovviamente bisognerà ripopolare la terra, e quindi salviamo pure gli animali a due e via dicendo, e sappiamo come si racconta del diluvio. E poi cosa capita? Che il Signore suggella un'alleanza con l'umanità. E questa alleanza è quella che viene suggellata con l'arcobaleno. Oggi ce lo vogliono rubare dalla sponda LGBT, ma l'arcobaleno è nostro, perché l'ha inventato il Signore. È quel bellissimo segno che dal cielo arriva sulla terra e dice che il cielo si è chinato sulla terra. Dio si china sull'uomo e dice: mi sono pentito del malefatto. Ovviamente è un'espressione iperbolica, no? Usata dall'Antico Testamento per dire: non voglio più punire l'uomo. Suggello una mia alleanza, gli metterò proprio questa legge nel cuore, osserverà il mio comando e non si allontanerà più così tanto. Poi arriva l'alleanza con Abramo. In Abramo c'è la promessa della discendenza e lì le alleanze si facevano poi squartando gli animali, mettendo il sangue, perché era come dire: se non rispetti l'alleanza, ti capiterà quello che è successo a questi animali, verrai fatto a pezzi. Poi c'è l'alleanza sul Sinai con la legge, con Mosè. Vedete quante alleanze. E uno dice: che bello, tante alleanze così. No, guarda che se ne hanno fatte tante, perché in realtà le hanno tradite una dopo l'altra. Ma il Signore era talmente paziente che ridava un'altra occasione, un'altra occasione, un'altra occasione, finché a un certo punto arriva Gesù che dice: questo è il mio sangue versato per la nuova ed eterna alleanza. Nuova, ma nel senso latino, novus vuol dire ultima. Questa è l'ultima alleanza ed è quella eterna. E questa alleanza è talmente forte che Dio non fa semplicemente un patto con l'uomo, non è un contratto, ma Dio prende l'uomo su di sé. Cioè, pensate a questa meraviglia, ma qui ci va la fantasia di Dio, cioè essere proprio innamorati dell'uomo, perché il Verbo di Dio ha assunto la natura dell'uomo, non per finta, davvero. Cioè, Gesù si fa uomo e rimane uomo per sempre, perché Cristo risorto con il proprio corpo piagato, con le mani bucate dai chiodi, con i piedi che portano ancora il segno, la piaga del costato, sulla spalla, tutti questi segni di resurrezione, nella passione, morte in croce, c'è la profezia della resurrezione, rimangono, ma il corpo è glorificato ed è un corpo di uomo, di un vero uomo. C'è il corpo, c'è la volontà, c'è l'anima umana, unita ipostaticamente con la natura divina. E questo significa il mistero del vero Dio e vero uomo. Se ci hanno fatto un concilio, insomma, ai tempi di Nicea, poi di Costantinopoli, vuol dire che è un mistero non da poco. Siamo nel IV secolo, la Chiesa deve ripensare questo mistero cristologico per andare al fondo. È certo che si sono versati fiumi di inchiostro, ma poi si è arrivati al simbolo niceno-costantinopolitano, fondamentalmente il credo nella forma lunga che recitiamo la domenica messa, dove diciamo delle verità meravigliose su Gesù, ma in sintesi qual è il mistero? Dio che si fa uomo e resta uomo. Ecco l'alleanza, la natura umana assunta dalla natura di Dio, che dice: io ti assumo perché se io divento uomo, tu diventerai Dio. I padri della Chiesa non hanno paura di usare queste espressioni così estreme, che potrebbero forse far inorridire se non si pensasse che sono ovviamente l'espressione di un amore estremo come quello della Trinità. Per ogni uomo, un'alleanza eterna. Per far vedere che questa alleanza vinceva anche la morte, Cristo si mostra con il proprio corpo risorto. Per far vedere che quell'alleanza andava anche al di là della morte, rimaneva intatta. È un'alleanza nuova, che segue dunque quelle che hanno avuto tutte, come si può dire, termine, quelle che ho elencato in precedenza. Se Cristo risorge, quindi col corpo umano, anche noi siamo chiamati a questo destino eterno. Perché? Perché la nostra resurrezione, la mia e la tua, si fonda su quella di Cristo. Ecco perché la resurrezione finale riguarda dunque i corpi che sono chiamati a ricongiungersi all'anima, ricostituendo quell'unità, lo dicevo già prima, che caratterizza la persona umana. Una ragione filosofica, l'ho già detto, lo riprendo, che rende proprio plausibile la resurrezione dei corpi, sta nella definizione di anima. Prendiamo pure la definizione filosofica, quella aristotelica: l'anima è la forma di un corpo. In questo caso potremmo dire che ogni essere si compone di materia e di forma. E allora, se io devo dire, ad esempio, prendo una materia, posso fare qualunque tipo di oggetto. Se prendo un pezzo di legno, posso farne un bastone da passeggio, una tavola per pranzarci, un banco da scuola. E Cos'è che rende questo oggetto indeterminato un oggetto di utilizzo quotidiano ben specifico? La forma che gli do può avere la forma di bastone, la forma di tavolo, la forma di scrivania, ma la materia è il legno. È evidente che se tolgo la forma viene meno anche l'oggetto, nella sua essenza. Se tolgo l'anima, anche l'uomo perde la sua forma essenziale. Ecco che da questo esempio allora posso dire che una materia da sola ci potrebbe anche stare, uno potrebbe avere del legno che non ha ancora una forma precisa, posso decidere se farne una sedia, un banco o cos'altro, ma la forma non può stare da sola. Pensate al classico esempio aristotelico, il più facile di tutti, la pallina di cera. Se io ho una pallina di cera, posso tranquillamente cambiare forma, la cera è plasmabile. Ne faccio un cubetto, ne faccio insomma qualcosa di una forma allungata, un cilindro, ma se tolgo la forma pallina, la pallina di cera non c'è più. Se tolgo la forma anima, la persona non c'è più. C'è un rapporto tra anima e corpo strettissimo, perché non solo infatti l'anima non può stare da sola, ma neppure il corpo umano può stare senza anima. Lo dice la parola, anima vuol dire animare, cioè rendere vivo. Se tolgo l'anima, il corpo non è più vivo. E peraltro questa è una delle osservazioni che permettono anche ai materialisti più incalliti di incontrare qualche dubbio nella loro teoria. Io a scuola lo dico tranquillamente, dico, ma quando una persona muore, so, un infarto, un embolo, cioè una morte improvvisa, e dico, eppure gli organi ci sono tutti, il cuore c'è, il fegato c'è, i polmoni ci sono, il sangue c'è e uno non è più vivo, e cosa manca? Cos'è che è venuto meno? L'anima. È l'anima che è il principio della vita di quel corpo. E infatti Aristotele diceva, ben prima di San Tommaso d'Aquino, che l'anima è la forma di un corpo che ha la vita in potenza. Potenzialmente è vivo, ma senza anima è un cadavere. E quando non c'è più l'anima, e l'anima si separa dal corpo, il corpo rapidamente si decompone e ritorna polvere. Quando si muore dunque e l'anima viene separata dal corpo, questa stessa anima si trova in una condizione che non le appartiene. Si può dire che è fatta per stare unita al corpo. E quello che dunque ci sembrerebbe normale, dire l'anima vive dopo la morte, in realtà è una situazione di incompiutezza e di parzialità che è incompatibile con l'eternità che invece esige perfezione e pienezza. E questa pienezza si avrà solo, lo ripeto, quando l'anima si ricongiungerà a un corpo. Prima dicevo che non soltanto i beati risorgeranno con un corpo, ma anche i dannati. E la resurrezione riguarda tutti, lo ha detto proprio Gesù, quando nel capitolo 5 di Giovanni parla del giudizio finale. Verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce del Signore e ne usciranno. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male per una resurrezione di condanna. Ma trova conferma anche in quanto ho detto in precedenza, se la resurrezione dei corpi è necessaria per ricomporre infatti l'unità della persona, cioè appunto anima e corpo, e questo non può valere soltanto per i buoni, ma anche per gli empi. E spesso mi sento chiedere, no, ma perché Dio non si limita a distruggere le anime dei dannati dopo la loro morte, invece di lasciarle sussistere eternamente nell'inferno? Qualcuno si chiede, ma non potrebbe mantenere nell'essere, nell'eternità, solo le anime salvate, siano nel purgatorio temporaneo oppure nel paradiso? Ecco, Dio, che è onnipotente, può fare tutto ciò che vuole, ma non vuole distruggere l'anima che ha creato. Perché anche se queste anime lo hanno rifiutato irrevocabilmente, quindi radicalmente, le mantiene nell'essere, rispettando le conseguenze più estreme. Un tale rispetto, Dio non lo conserva solo alle anime, ma alla persona nella sua completezza di anima e corpo. Ecco perché anche i dannati alla fine dei tempi risorgeranno con un corpo che sarà eterno, ma ovviamente privo della luce, della gioia e dell'amore che caratterizzerà il corpo glorificato dei e dei beati. Questo è un punto importante. A volte sento magari parlare con un po' di superficialità di quello che riguarda il destino eterno delle anime, e qualcuno dice: no, no, ma i dannati non ci saranno, l'inferno sarà vuoto, alla fine Dio distrugge semplicemente le anime di quelli che si perdono perché nella sua misericordia non vuole che soffrano per sempre. Ma la cosa più sbagliata di questa non ce n'è, intanto perché Dio non contraddice se stesso e non serve il Vangelo, ma basta Aristotele per sapere che l'essere è bene. e Dio non crea l'essere per poi distruggerlo. Quello che Dio crea veramente è fatto per durare e anche la persona è pensata per l'immortalità. E chiunque sia all'ascolto, io posso dire, sono certo che tu sei immortale. Non so se la tua sarà una immortalità beata o dannata, ma posso dirti che sei immortale. E anche coloro che pensano che la loro vita finisca nel nulla o sono materialisti convinti, si convinceranno, avranno una grandissima sorpresa un secondo dopo la loro morte, perché si renderanno conto che finita la vita terrena non finisce la vita dell'anima, l'anima non muore. In un bellissimo messaggio la regina della pace Medjugorje nei primissimi tempi delle apparizioni dice nel 1982 che ogni persona è perfettamente cosciente nel momento della morte. L'anima si separa dal corpo. E poi dice, è sbagliato insegnare che ci si reincarna o si nasce altre volte, non si rinasce più perché la vita è una sola. Allora viene da chiedersi, sì, ma in questa vita eterna noi c'entriamo soltanto con l'anima. E alla fine dei tempi, alla fine del mondo, quando risorgeremo con il corpo, con quale corpo? Ecco, è bellissimo il brano della Maddalena, che poi è un brano veramente pasquale, il capitolo 20 di Giovanni. E lasciamo che proprio l'incontro di Maria Maddalena con Gesù ci dica con quale corpo risorgeremo. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Intanto fa veramente tenerezza Maria Maddalena, perché è quella Maria di Magdala, sorella di Marta e di Lazzaro. Io qui sto con Agostino nella sua interpretazione, che già aveva visto di cosa è capace Gesù, eh? Cioè, perdonatemi, ma insomma, Gesù ti libera da sette demoni, eri morta e ti riporta in vita. Ti risuscita il fratello, morto da 4 giorni e ancora non ci credi, e ancora non ci credi. Infatti va al sepolcro convinta che fosse chiuso e ci rimane male quando è aperto. Ed è vuoto, non è che dice, ah, è vuoto, quindi è risorto. No, è vuoto, l'hanno portato via. E dico, ma come non puoi credere ancora nella resurrezione? Ma la fede è un cammino, no? E quindi a un certo punto dice, detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava in piedi, ma non sapeva che era Gesù, immaginatevi, no? Le disse Gesù. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. No, che bello l'amore che va la Maddalena per Gesù, no? Vado a prendere il suo corpo ovunque sia. E Gesù le disse: Maria. Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. E Maria andò subito ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore, anche ciò che l'aveva detto. Questo è un brano bellissimo perché tanto ogni volta che lo leggo mi sembra la prima volta e poi è bello perché Gesù che è risorto si presenta con il corpo, non quello che aveva in vita, terreno e mortale, no? Pensate a Lazzaro quando risorge dal sepolcro, esce che non penso che fosse nelle migliori delle condizioni, gli avranno tolto pure le bende, ma era sempre un cadavere che era appena ritornato in vita. E invece Gesù, ma no, corpo glorificato, meraviglioso, e quindi vivo come mai era stato prima, proprio luminoso, splendido, tanto che la Maddalena non lo riconosce. E però serve che Gesù la chiami per nome, Maria, perché lei capisca chi ha davanti. E questo è molto bello, perché a un certo punto cosa succede? Che lei sta parlando con quello che è Gesù, ma non sa che è Gesù, e poi l'Evangelista nota, allora voltatasi lo riconobbe. Ma come? Se gli stava già parlando, lo guardava già in faccia. Ma quel voltarsi è quel metanoin che in greco vuol dire convertirsi, cioè girare il cuore. Era come se la Maddalena guardasse Gesù ma non l'aveva ancora riconosciuto. Lo guardava con gli occhi ma non con il cuore. Non l'aveva ancora riconosciuto perché ancora non credeva possibile che quello che gli stava lì davanti fosse Gesù, quel Gesù che aveva visto, no? Flagellato, che sapeva essere stato crocifisso, che sapeva essere stato sepolto. Ed adesso era lì vivo. Ora immaginate se tanta fatica ha fatto la Maddalena che di miracoli su di sé, sui suoi familiari e sui suoi cari ne aveva visti, se ha fatto fatica lei a credere, immaginatevi la fatica che facciamo noi oggi. Immaginatevi con quanta superficialità possiamo dire credo alla resurrezione e poi in realtà Di fronte alla domanda, ma credi che ci sia la vita eterna? Ma chi lo sa? Ma credi che Gesù è vivo? Ma credi che quando sei davanti all'Eucaristia Gesù è vivo lì? Ma credi che nella sua resurrezione tu sei risorto? Ma credi che, come diceva Chiara Corbella, siamo nati e non moriremo mai più? Ma credi davvero che non c'è niente più che può farti paura? Perché la vita vera, quella non te la può togliere nessuno. E quando Gesù dice: non temete quelli che possono uccidere il corpo, ma temete quelli che possono uccidere e l'anima e il corpo, sta dicendo esattamente: guardate alla prospettiva completa della vostra vita, nell'ottica dell'eternità. E poi ancora, per la difficoltà di riconoscere il Signore, pensate anche all'episodio della pesca miracolosa, capitolo 21 di Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Quando già era l'alba, Gesù si presentò alla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? E gli risposero: no. Qui è forte perché Gesù ovviamente sapeva che hanno preso niente, no? Allora disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Cioè, tu pensa, questi sono pescatori da una vita e dicono: ma questo deve venirci a insegnare il mestiere. La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Quindi allora pensate, cioè, la situazione anche umana, no? Cioè, cosa hanno fatto questi? Ma credevano veramente alla resurrezione, ma alla fine sono tornati a fare i pescatori. Sì, abbiamo visto, ma forse però ritornano alla vita di prima. E Gesù si presenta nel loro quotidiano. Il risorto viene a prenderti nella tua vita concreta, nella tua vita quotidiana, nei tuoi impegni familiari, nel tuo impegno di studio, nella tua fatica del lavoro, nella tua condizione di malattia, nella tua solitudine. Lì si presenta il risorto. E allora ecco che quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Qui è Giovanni che lo riconosce. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Qui è bellissimo questo brano sul lago di Tiberiade, no? Perché non lo riconoscono subito, lo riconoscono quando Gesù da loro da mangiare, però nessuno osa chiedergli nulla perché sono sospesi tra il dubbio e il timore. È Giovanni che riconosce Gesù, ma forse più che l'aspetto esteriore lo riconosce dal segno che ha compiuto. Ricordatevi che il Vangelo di Giovanni è il Vangelo dei miracoli, cioè dei segni, no? Capitolo 2 di Giovanni, le nozze di Cana, fu il primo dei segni di Gesù, eh? E poi il segno per eccellenza è quello proprio della resurrezione. Forse di fronte a questo segno, colui che Gesù amava, Giovanni, riconosce che è il Signore. Eppure non lo riconoscono fisicamente perché ha un corpo talmente bello, talmente diverso, nuovo, che sembra irriconoscibile. E poi un'altra conferma la troviamo nell'ultimo episodio che posso citarvi, che è quello dei discepoli di Emmaus, quando camminano per tanto tempo con Gesù accanto e non lo riconoscono finché non compie un gesto che è eclatante. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ecco, il capitolo 24 di Luca, e i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù ancora una volta, non per quello che è l'apparire fisico di Gesù, ma per i gesti, per le parole e perché sentivano che gli ardeva il cuore mentre Gesù parlava con loro. E allora questo è proprio bello, no? Perché è come se Gesù dicesse anche a te oggi: guarda che riconoscermi non dipende dal vedermi fisicamente. Perché i discepoli hanno riconosciuto Gesù? La Maddalena lo riconosce perché si sente chiamare per nome. Giovanni lo riconosce perché lo vede compiere il segno, la pesca miracolosa, e i discepoli di Emmaus perché vedono che spezza il pane. Questo vuol dire che ogni volta che tu ti senti chiamare dal Signore nella tua vita, ogni volta che vedi un miracolo che accade nella tua esistenza, ogni volta che partecipi all'Eucaristia, tu hai un segno della resurrezione di Cristo. Non hai scuse. Non puoi dire: 2000 anni fa era più facile. Questo non puoi dirlo. Perché con quel grande filosofo danese della metà dell'Ottocento, Kierkegaard, abbiamo imparato che la contemporaneità a Cristo è l'unico modo per rapportarsi all'assoluto. È l'unico modo perché questo avvenimento passato non sia semplicemente morto e sepolto. Se abbiamo celebrato la Pasqua semplicemente ricordando un avvenimento passato, siamo degli illusi. Noi facciamo il memoriale della Pasqua, noi riviviamo quella Pasqua, riattualizziamo quella Pasqua, noi riviviamo in quella resurrezione la nostra rinascita. Ecco perché in questa prospettiva allora noi ci troviamo immersi in una prospettiva di vita nuova che comincia già adesso e che ci chiama evidentemente a ribaltare completamente quelle che sono le nostre aspettative, il nostro modo di guardare alla vita. Ecco, io amici mi fermo qui. Voglio lasciare un po' di spazio per le vostre domande. Evidentemente la questione non finisce qui perché ci sarebbe tanto ancora da dire sulle caratteristiche del nostro corpo, come risorgeremo, quanti anni avremo, ma questo magari capiterà con le vostre domande oppure in qualche prossima puntata. Però vi resti anzitutto l'invito di fare tesoro di quello che ho cercato, magari in maniera un po' confusa, di condividere per dirvi la verità della Pasqua sta qui, nel guardare al Cristo risorto come immagine perfetta di quello che è il destino che attende ciascuno di noi. Solo con questa consapevolezza si sperimenterà la gioia vera della Pasqua. E adesso facciamo allora una piccola pausa musicale, poi vi aspetto con le vostre domande che vi chiedo come sempre, brevi e in tema con quanto presentato. A tra poco. Pronto, buonasera. Buonasera, Buonasera. Grazie. Santa Pasqua a lei e a tutti gli ascoltatori. E un grazie appunto a Dio intanto e anche a lei per il dono che Dio le ha dato per la chiarezza e per l'esposizione. Una piccola domanda, riflessione su due punti. Uno, sulla concretezza del toccare con mano la vita di Dio. Cioè la vita di Gesù, ossia proprio questo virus, ovviamente adesso prenda con le pinze quello che voglio dire, è semplicemente una provocazione costruttiva. Gesù non aveva paura di farsi toccare le lebbrosi, addirittura, come posso dire, prendeva il loro posto. Ricordiamoci quel lebbroso, quei 10 lebbrosi, che volevano, non potevano accostarsi alla città proprio perché tali, e quando Gesù li guarisce tutti, uno torna indietro, ringrazia Dio, e a quel punto è come se Gesù prendesse il posto del lebbroso, perché poi Gesù non può più avvicinarsi, tant'è perché le persone lo cercano. E oggi noi viviamo questa pandemia con le giuste attenzioni, perché è giusto essere attenti, però il rischio più concreto secondo me è proprio quello del non permetterci più di incontrare l'altro nella vita vera, nei gesti quotidiani, nell'abbraccio, in un semplice gesto, perché è giusto essere attenti verso l'altro, però questo sta facendo entrare, secondo me, in una problematica ben più grande che ovviamente non affronto. Con questo non voglio dire che ce ne dobbiamo infischiare della pandemia. E poi l'altro punto invece è che grazie a quel Tommaso, su un punto che lei ha sottolineato giustamente, non possiamo giust dire all'epoca era più semplice rispetto ad oggi, infatti non è così, non è più semplice. Però grazie a quel Tommaso che dice se non vedo, non tocco, non metto le mie dita nelle sue piaghe, non crederò, Gesù stesso dice beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Ecco, questi passaggi penso che siano fondamentali nella vita di ogni cristiano. Grazie, no, chiudo così e grazie ancora per la sua catechesi e buona Pasqua ancora rinnovata. Santa Pasqua. Grazie per questo tuo intervento e due osservazioni pertinenti. Allora, ma rispetto alla prima, è vero che questo clima di pandemia, a causa delle restrizioni e delle prudenze giustamente richieste, ha impedito tanto contatto fisico e sembra quasi paradossale aver sottolineato l'importanza della corporeità a più riprese questa serata, in un momento in cui questa corporeità ci viene preclusa, ma probabilmente si potrebbe fare riferimento a un discrimine necessario tra la prudenza e la psicosi. E nel momento in cui c'è la prudenza che è necessaria, e poi non è che ci si impedisce di avere un contatto, a volte basta anche nella distanza, una vicinanza, una prossimità. Sicuramente dalla prima alla seconda ondata di pandemia si è compreso quanto sia fondamentale avere un contatto con le persone. Io penso non soltanto quelli che sono morti, ma quelli che sono morti senza sacramenti. C'è una prospettiva di contatto con l'Eterno, di prossimità del Cristo alle persone che sono in punto di morte che è venuta meno. E anche quando sentivo sui diversi giornaloni laici lamentare la mancanza di una vicinanza umana ai malati, si parlava sempre solo della mancanza di un conforto umano e non invece della mancanza del conforto religioso. E credo che questo ci permetterà, in condizioni di normalità, di riscoprire la bellezza di certi gesti, ma soprattutto di capire che non c'è nulla di superfluo o di inutile in quella che è la galassia della persona umana, così come Dio l'ha pensata. E anche forse la banalità di certi gesti, come un abbraccio, un saluto, un tempo ritorneranno ad avere un valore ben diverso. E rispetto a Tommaso, ecco, è importante il riferimento del credere, no? Perché una volta dice, ma alla fine Tommaso è l'esempio dell'incredulo per antonomasia. In realtà è colui che fa l'atto di fede anche più esplicito del Vangelo, perché dice mio Signore e mio Dio. Ed è molto interessante capire che ha creduto di fronte a quello che aveva davanti, perché non ha senso dire ha creduto perché ha veduto, nel senso che il vedere non comporta il credere. Se io vedo una cosa, la so, credo a qualcosa che non vedo. E allora uno si chiede, ma come ha potuto Tommaso credere che Gesù lo vedeva? Lui aveva davanti una persona che era risuscitata. Credere che quella persona fosse Dio era un passo ben diverso. Avrebbe potuto trovarsi Gesù davanti come si era trovato magari Lazzaro, che era resuscitato dopo 4 giorni. Invece Tommaso, quando vede quelle ferite, vede quel corpo, capisce che davanti a sé non c'è semplicemente un resuscitato, ma un risorto e quindi è Dio. Ed ecco perché Gesù dice: beati quelli che pur non vedendo, perché noi oggi non vediamo il Cristo risorto nella sua fisicità, però crederanno. E la vera domanda che dobbiamo chiedere al Signore di avere la grazia di potervi rispondere, magari come dono di Pasqua, è proprio del come si fa oggi a credere alla resurrezione, non avendo la possibilità di incontrare il risorto come lo incontravano i discepoli dell'epoca, ma la prospettiva è soltanto quella della contemporaneità, come facevo riferimento prima. Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Allora, volevo farle una domanda. Lei ha citato, ha affermato che ogni uomo ha un inizio storico, ma non avrà una fine. Fino a lì si comprende molto bene, si capisce molto bene, ma io vorrei chiedermi se nel caso della doppia natura di Cristo, Gesù, vero Dio, vero uomo, accade lo stesso, cioè abbiamo un inizio storico ma non abbiamo una fine. Sì, perfetto, grazie della domanda. È proprio così. Nel caso di Cristo bisogna, come si può dire, intendere che la sua esistenza storica ha un inizio. C'è un momento che è quello della incarnazione, quello che noi celebriamo con la solennità dell'Annunciazione dell'Angelo a Maria, quando c'è il concepimento e il Verbo si fece carne, quel Verbo che era stato generato da Dio fin dal principio. E quindi quel verbo che è vero Dio eterno assume la condizione umana e la conserva per l'eternità. Cioè il Cristo rimane vero Dio e vero uomo per sempre, tanto che poi nel Catechismo, quando si parla del giudizio, si ribadisce quello che Gesù stesso dice al capitolo 10 di Giovanni, quando a un certo punto dice: ma il Padre ha rimesso il giudizio al Figlio, perché il Figlio può giudicare l'uomo. Lui non spiega i motivi, il Catechismo sì. Perché se Gesù Cristo risorto è vero Dio e vero uomo, è giudice in quanto Dio, giudice dell'uomo in quanto uomo, quindi sa bene quello che va giudicando perché ha assunto la stessa natura umana. E quindi è proprio corretto questo parallelismo, come noi potremmo dire abbiamo un'esistenza che ha avuto un inizio e non avrà mai una fine, nel caso del Gesù Cristo vero Dio e vero uomo c'è un inizio, l'incarnazione, e non ci sarà mai una fine. Questo è anche il senso, già lo ricordavo, dell'alleanza eterna tra Dio e l'uomo che è suggellata nel Cristo stesso, che rimane con il suo corpo glorificato in eterno. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Daniela, telefono dalla Puglia. Senta, Benvenuta. grazie. Volevo farle questa domanda. C'è differenza tra anima e spirito? Grazie. La differenza tra anima e spirito c'è, e a volte non si distinguono le due parole e si dice molto, magari sbrigativamente, l'uomo è un essere a due dimensioni, corpo e anima. Questo l'ho detto anch'io nel corso della nostra conversazione. In realtà la differenza sta nel senso latino della parola anima, che non va inteso in senso immediatamente religioso. Potremmo dire che l'uomo è un essere a tre dimensioni. C'è la corporeità, la psiche, che è quella vita interiore che anche, per dire, il mondo, lontano da Dio riconosce, e poi c'è la dimensione spirituale e religiosa. Allora, quando diciamo anima, leggiamo, pensate al capitolo 4 della lettera agli Ebrei, quando si cita la parola di Dio che riesce a discernere anche il punto di congiuntura dello spirito dell'anima. Ed ecco che l'autore della lettera agli Ebrei sta distinguendo i due termini e scrive, avendo la nozione latina del termine anima, che è equivalente alla mens, è come dire la mente, cioè la psiche dell'uomo. E poi c'è invece lo spirito, che sarebbe l'anima in senso religioso. E quando guardiamo all'uomo dobbiamo tenere presenti questi tre aspetti. E quindi quando facciamo riferimento alla sopravvivenza dell'anima, intendiamo dire la parte spirituale dell'uomo. Quando pensiamo ad Aristotele e a come la sua filosofia viene ripresa da Tommaso, possiamo dire in fondo che in Aristotele l'anima umana, cioè l'anima razionale, in Tommaso viene completata di una specifica caratteristica che è quella dell'essere un'anima spirituale, capace di sussistere indipendentemente dal corpo, di sopravvivere e di essere immortale. Non diciamo eterna, è importante usare anche questa precisione lessicale, perché vorrebbe significare che non c'è stato né un inizio né una fine. No, l'anima ha un inizio. La creazione di Dio non è terminata con il riposo del settimo giorno, la creazione di Dio prosegue. E prosegue perché? Perché Dio continua a creare ogni volta che viene concepito un essere umano e viene infusa in questo embrione una nuova anima. Allora è bello pensare che fino alla fine del mondo Dio continuerà a creare, questo rende ancora più importante, cari amici, l'impegno e la battaglia in difesa della vita nascente e la sua difesa fino a tutta la sua durata naturale. Ecco, noi siamo arrivati alla fine, purtroppo, del tempo a nostra disposizione. Io vi ringrazio per la partecipazione e l'ascolto, per tutti quelli che, ecco, da casa hanno seguito questa conversazione sulla resurrezione, quindi in tema con la Pasqua, per la quale veramente faccio a tutti gli ascoltatori di Radio Maria e a tutti i loro amici, familiari e parenti i migliori auguri. Che sia davvero una Pasqua di resurrezione che ci veda rinnovare l'impegno della preghiera per il Santo Padre, per la Chiesa, per tutti i sacerdoti, per le persone sofferenti nel corpo e nello spirito. E in modo particolare questa sera, ecco, vi chiedo di ricordare tutti coloro che proprio nella notte di Pasqua ricevono il battesimo e diventano figli di Dio entrando a far parte della Chiesa. A tutti voi un ancora cordiale saluto, l'augurio di una Santa Pasqua, un arrivederci al prossimo primo sabato del mese da parte di Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.